passare veloce nel cielo scuro, brillare furtivo cambiando colore. Le nuvole nere a pensate guardare, ridendo per quanto di sole aprirsi in un tratto. Insieme i monti ed il piano estendendo.